Incontri di Gianfranco Fabi. Buona domenica a quanti ci ascoltano. Con Imagine, un brano classico, un brano che evoca tante cose, iniziamo l'incontro di oggi con Piero Bassetti. Buongiorno Piero Bassetti. Buongiorno. Imagine, che cosa le ricorda? Mi ricorda un po' di gioventù, perché voglio dire, è passato parecchio tempo. 1968 probabilmente. Sì. Non direi che mi ricordi il 68, no? Mi ricorda... Io nel 68 ero al CRPE, ecco, al Comitato Regionale della Programmazione Economica, e c'erano però situazioni difficili, cominciavano a vedersi. Ecco. No, però a me ricorda forse il clima che ha preceduto il 68 e poi il 70 e tutto quello che si è fatto. Ecco, ricordiamolo per quanti possono non conoscerlo, Piero Bassetti è stato il primo presidente della Regione Lombardia dal 70 al 74, è stato poi deputato al Parlamento dal 76 all'82, è stato presidente della Camera di Commercio di Milano dall'82 al 97 e poi lo vedremo. Però restiamo un po' ai ricordi. 1970 iniziava l'esperienza delle regioni, iniziava l'esperienza della Lombardia. Quali erano le speranze, quali erano in fondo anche le illusioni che si avevano in quel periodo? Beh, erano tante, sì, giusto, sia le speranze che le illusioni. Le speranze, almeno quelle attorno alla quale io avevo costruito il mio impegno autonomista, che era cominciato negli anni 50, che si era espresso nell'esperienza del Comune di Milano e che poi aveva, appunto, si era incanalato sulla preparazione delle regioni e della regione, erano quelle che io conservo intatte, che in Italia si potesse fare, dicevamo e dico, una nuova statualità, cioè una nuova idea dello Stato. Convinto come ero allora, sono più che mai oggi, che i problemi del nostro paese non sono il nostro paese, la nostra società, è il nostro Stato, che devo dire in queste settimane ha ricevuto un contributo di consapevolezza notevole. Cioè, in queste settimane in cui si parla dei 150 anni. Si parla criticamente del Risorgimento. Ora, secondo me è un errore parlare male del Risorgimento, che invece ci ha dato un risultato importante. Siamo diventati il settimo paese industriale del mondo e ci siamo seduti al tavolo della famiglia degli stati, no? Però in cambio abbiamo rovinato, diciamo, la ricchezza del paese, che era la diversità. Ecco. Ho l'impressione che la riflessione critica sul Risorgimento e soprattutto su quella scelta sbagliata che è stata quella del 1861, che Cavour aveva intuito nel suo fondamentale errore, cioè di fare dell'Italia un Piemonte allargato, quindi occupato militarmente, praticamente è stata una fesseria colossale che oggi continuiamo a pagare. Quindi l'idea di tornare a una forma di Stato più decentrato in un certo senso, in cui ci fosse maggiore possibilità di partecipazione dei cittadini, e questa era in fondo l'illusione. E soprattutto di espressione delle diversità. Cioè noi eravamo convinti che, così come in un paese delle 100 città i comuni debbano avere un loro spazio di autonomia, che per forza deve essere anche finanziaria, così in un paese articolato in cui certamente c'è un nord, un centro e un sud, ma anche nel nord c'è un Veneto, un Piemonte e una Lombardia, poter avere forme di autogoverno che fanno dei vestiti statuali su misura, per organismi così diversi, cioè mettiamoci pure in divisa, ma almeno il numero e la taglia possa essere diverso. Invece no, l'idea è stata proprio quella. E giustamente Cattaneo diceva che se tu vuoi mettere in evidenza le diversità, li vesti tutti con la stessa uniforme, allora si vede che c'ha le maniche corte, le maniche lunghe, si vede chi è alto, certo, chi è basso. Quindi c'era questa tensione, diciamo, facendo il presidente della Lombardia, e poi forse accorgendosi, mi corregga se sbaglio, che dal basso si poteva fare poco, è passato a Roma pensando che si potesse muovere qualcosa, no, da Roma. No, no, io sono passato a Roma, diciamo, io nel 74 mi sono dimesso, io spontaneamente, perché avevo capito che il regionalismo era stato frustrato dal centralismo, ecco, e che il centralismo era la malattia trasmessa dai partiti. Quindi io mi sono impegnato in un tentativo che si chiamava di rifondazione, nel tentativo, il mio partito della Democrazia Cristiana, di ripensare le forme della Democrazia Cristiana, e quindi di andare in Parlamento a portare avanti quella riforma. Devo dire che nel 70, diciamo nell'82-83, quando mi sono dimesso anche dal Parlamento per andare a dirigere la Camera di Commercio di Milano, avevo capito che dal Parlamento non passava più niente di serio, di importante. E quindi se si voleva fare qualcosa, bisognava tornare alla base, e la base per me era ovviamente Milano, e in Milano era la business community, cioè la società reale che si esprimeva intorno alle imprese, perché io sono convinto ancora oggi che il popolo sul quale costruire una nuova società italiana è quello delle imprese. E quindi per 15 anni poi è stato presidente della Camera di Commercio di Milano, dall'82 al 97, in questo periodo anche, per un certo periodo, presidente dell'Union Camere. Com'era l'economia in quegli anni? Quegli anni ha avuto fasi abbastanza alterne, però tutto sommato l'economia non aveva ancora ricevuto i colpi di una vera crisi, anche se c'è stata una crisi in quegli anni. Certo. Ecco. Io avevo capito e coltivato l'economia delle piccole e medie imprese, che allora, a differenza di oggi, era snobbata, perché in fondo il culto era quello per le grandi imprese e si pensava che il futuro dell'economia italiana passasse dalle grandi imprese. Io personalmente sono sempre stato convinto che non era così, e devo dire che dalla Camera di Milano questo lo si vedeva chiaramente, cioè si vedeva un'economia delle grandi imprese limitata da quello che solo oggi si comincia a superare, cioè la dimensione nazionale. Cioè le imprese di partecipazione statali, ma sulla loro sponda, tranne per esempio a Milano la Pirelli, che ha sempre avuto, certo, una sua allure internazionale, tendevano a considerarsi destinate al mercato e all'economia nazionale. Mentre già allora era chiarissimo che almeno quella europea, che poi ha portato all'euro, sarebbero state il futuro. E oggi è chiarissimo che il futuro è il local, come si è visto a Torino sull'episodio di Mirafiori e di Marchionne. Ecco, adesso tra l'altro lei è presidente, mi pare, di Globus et Lux, magari ne parliamo nella seconda, sì, parte del programma. Starei ancora concludendo questa prima parte su Milano. Milano com'è cambiata in questi anni, dagli anni in cui era consigliere comunale? Secondo me Milano è cambiata radicalmente, cioè io ho fatto 7 anni assessore al bilancio e poi a tante altre cose. Perché questo prima degli anni 70, negli anni 60. Io sono diventato assessore al bilancio nel 60. No, ecco. E allora Milano aveva un problema all'interno, ma soprattutto di rapporti con i comuni contermini. Tanto è vero che noi avevamo fatto allora, nel 60, il PIM, che era di 110 comuni. No? Avevamo visto che il problema di Milano non poteva stare nella sua circoscrizione amministrativa. Oggi Milano è una global city, cioè la trasformazione è stata radicale e ha accompagnato quello che è la trasformazione delle poche grandi città che sono poli globali. Milano è una di quelle in cui forse si è perso un po' di identità, ma si è acquistata forse in dimensione internazionale. Sì, in cui ci si prepara a trovare la nuova identità che il Glocal propone a tutti, cioè a cavallo tra ciò che è locale e ciò che è globale, cioè non pensando di esaurirsi in sé, perché la globalizzazione te lo impedisce. Incontri. Buon pomeriggio e buona domenica a tutti. Riprendiamo con queste note di Imagine il nostro incontro con Piero Bassetti. L'ho presentato prima, è stato il primo presidente della Regione Lombardia, poi deputato al Parlamento, presidente della Camera di Commercio di Milano, attualmente presidente di Globus et Locus. Stavamo appunto parlando, in conclusione della prima parte, di questa identità di Milano e un po' dell'Italia globale e locale. Cos'è Globus et Locus? Beh, nasce da una cosa che lei ha dimenticato, cioè che io sono stato anche presidente dell'Associazione Camere Estere, cioè le Camere Italiane nel mondo. Beh, ha avuto tante cariche. E da lì è nata l'idea di fare Globus et Locus, perché facendo quel mestiere lì mi sono convinto di un punto di vista del quale sono convintissimo, cioè che il mondo si stava globalizzando e che la globalizzazione, lungi dallo schiacciare la dimensione locale, l'avrebbe in qualche modo riabilitata, esponendola però anche al rischio del localismo, che è quello che puntualmente si è visto. Cioè oggi, voglio dire, la globalizzazione è temuta perché si pensa che possa danneggiare il locale, il che è vero, ma non è difendendoci nel chiuso del locale che si supera le sfide. Quindi noi abbiamo fatto Globus et Locus che ha come missione di aiutare le classi dirigenti della pianura del Po, sostanzialmente, a prepararsi alle sfide della globalizzazione. E uno dei punti di attacco è stato quello della difesa dell'italicità. Sì, anche questo, perché voglio dire, gli italiani... Ci sono 250 milioni di persone, noi stimiamo, che non sono italiani all'estero, perché ormai un italiano, un americano che quattro generazioni fa è arrivato a Ellis Island non ha più che pochissimo di italiano. Allora, è un italo-americano, però se uno va a Buenos Aires trova l'italo-argentino, se va a Sydney trova l'italo-australiano, se viene in Italia trova l'italiano d'Italia, se va a Lugano trova l'italiano del Ticino, no? Si potrebbe aggiungere San Marino, certo. Cioè l'italicità, che è una grande civilizzazione, diversa dall'italianità, che invece è l'appartenenza in fondo allo stivale, oggi alla Repubblica, ieri al Regno, ecco, quella è quella dove gli italiani sono a perfetto agio. In fondo il problema di un italiano all'estero è sempre quello: è convinto di appartenere a una grande civilizzazione, ma anche di essere in un paese disgraziato. Adesso poi con Berlusconi la cosa è accresciuta. Se invece lo si richiama al fatto che è figlio, assieme all'italo-americano, assieme all'italo-argentino, assieme di una grande civilizzazione che condivide valori, tradizioni, per esempio non la lingua, ecco. Certo. Noi riteniamo che la difesa della lingua sia un discorso vecchio, certo, la lingua ha un suo valore culturale, ma non è l'elemento che tiene uniti gli italici. Abbiamo inventato la parola italici per distinguerci dagli italiani, no? Non avendo niente contro gli italiani. Cioè, senza la pretesa che partecipino alla vita italiana come era stato col voto degli italiani all'estero. Ecco, assolutamente no, perché quello, il tentativo di richiamare coloro i quali 100 anni fa e di più sono emigrati alla fedeltà allo Stato italiano è una battaglia persa, perché se invece li si richiama alle grandezze di ciò che è stata l'Italia nel mondo, ma non a partire da Dante, ma da Roma, eccetera, allora tutti ci stanno. Cioè, mentre nessuno, che se ne dica, voglio dire, che se ne dica, negli italiani nel mondo la fedeltà alla dimensione locale è maggiore che la fedeltà al tricolore. Certo. Noi abbiamo fatto un'indagine, per esempio, in Argentina, da cui viene fuori chiarissimo che le donne argentine di terza o di quarta generazione sanno il piemontese e sanno lo spagnolo. Tra l'altro mi diceva che lei ha un figlio in Argentina, sì, si trova bene? Sì, sì, bene, sì, beh, anche in una posizione abbastanza privilegiata perché fa il dirigente della Techin, ma però si trova bene. Io sono stato, io ho cominciato a lavorare in Argentina, cioè in una tessitura di Mercedes, e quindi conosco abbastanza bene, poi ci sono tornato un sacco di volte. Conosco bene il Brasile, dove invece ho un altro figlio. Ma come mai a un certo punto ha deciso di fare il politico invece che l'imprenditore? Beh, è proprio un problema di vocazione, anche al liceo. La mia passione era quella della politica, intesa però come in fondo un giovane se la sente proporre, come il modo attraverso il quale una persona contribuisce a fare la storia, certo. No? Poi soprattutto non, anni... non a perdersi in beghe di politicantismo, certo. Ecco. Comunque, ecco, c'è anche la passione per il nome della famiglia. Lei è presidente della Fondazione Giannino Bassetti. Ecco, sì, perché siccome da quando la famiglia si è dissociata dalla gestione dell'impresa, io ho ritenuto che la tradizione imprenditoriale della famiglia potesse essere difesa nell'esaltazione proprio del rapporto che c'è tra imprenditorialità e società e storia, che è quella dell'innovazione. Infatti la missione della Fondazione Bassetti è introdurre elementi di responsabilità e quindi anche di etica in un certo senso nei processi innovativi. E l'esperienza viene dal fatto che quando noi avevamo introdotto il piumone, la Bassetti aveva introdotto il piumone, ha cambiato il modo di dormire, certo. No? Io dicevo a mio zio, però non hai reso conto a nessuno. E questo secondo me è sbagliato. Cioè l'innovazione deve essere qualcosa che diventa poi qualcosa che si diffonde all'interno del sistema industriale. Certo, qualcosa che sia al servizio del modello di sviluppo che la gente consapevolmente chiede. No, non può prendere gli OGM, per fare un esempio, certo. Nessuno ce l'ha con gli OGM, ma è chiaro che se gli italiani vogliono un'agricoltura basata sulle diversità e senza OGM, allora inventare gli OGM non serve. Ecco, allo stesso modo, voglio dire, se nella nanotecnologia ci sono dei rischi, ma prende l'esempio più classico, è il nucleare. Cioè, voglio dire, quando si gioca con un'innovazione come il nucleare, è chiaro che bisogna esercitare qualche forma di non di controllo, ma di giudizio critico sul valore e sull'apporto che ha al futuro di quelli che la mettono in atto. Ma questo nostro paese, questa nostra Italia, ha un futuro industriale o siamo inesorabilmente nel post-industriale? No, io sono convinto in questo, sono convinto che Italia e Germania sono ancora le due, in parte anche gli Stati Uniti, grandi economie con un futuro anche industriale. Però bisogna tenere presente che non dico che oggi l'industria manifatturiera sia simile a quello all'agricoltura, ma teniamo presente che questo processo di passaggio dal primario al secondario al terziario è ineluttabile, anche perché lì gioca la globalizzazione, cioè l'articolazione tra primario, secondario e terziario è sempre stata geografica, perché noi non facciamo l'agricoltura in Piazza del Duomo. Voglio certo. Dire. Un certo periodo, ecco, della, solo in guerra, dell'autarchia, ecco. Si faceva. Quindi e il mondo si sta organizzando ed è chiaro che là dove non c'è una società avanzata, l'agricoltura fatalmente finisce con l'avere un primato, il che non vuol dire relegarli in un ghetto, il che è riconoscere che i processi di sviluppo e quindi di diversificazione delle attività sono processi che si svolgono secondo dei tempi lunghi e delle complessità innegabili. Ecco, ma c'è ancora la prospettiva di crescita. L'Italia cresce poco, cresce a livelli molto bassi, cresce poco in tanti sensi, non solo a livello io, di prodotto. Lì, no, adesso io non voglio fare l'eterodosso, ma intanto io non credo al PIL, ecco. Ecco, perché trovo misurare oggi il benessere della gente con la quantità di cose, quando poi il nostro vero problema è eliminare le cose, perché spazzatura e parcheggi, se uno ci pensa, cosa sono? Come ti liberi delle macchine, certo, e come ti liberi della spazzatura, no? Ecco. Io non dico che si debba stare senza macchine e senza diciamo rifiuti solidi, ma non c'è dubbio che continuare a credere che si è tanto più ricchi quanto più si è imbottiti di cose, da quel punto di vista lì, quel bellissimo film che era quello di Volonté, la mucca Carolina, l'aveva messo in evidenza già, cos'erano, gli anni 60. Cioè il fatto che a un certo momento... E non è riempendosi di cose che si diventa più ricchi nel significato vero della parola. In questo senso io credo che l'economia moderna, senza accorgersi, valorizza cose che gli italiani potenzialmente hanno. E quindi, complessivamente, per concludere con una battuta, bisogna essere ottimisti comunque sul futuro che abbiamo e che dobbiamo preparare per i nostri figli, i nostri nipoti soprattutto. Bisogna. Secondo me è possibile, però il futuro responsabilizza, cioè possiamo essere ottimisti se siamo determinati a creare le condizioni perché l'ottimismo si realizzi. Si realizzi, e ognuno di noi deve fare qualcosa la per quanto parte, può fare. Grazie mille, grazie a Piero Bassetti di essere stato con noi questo pomeriggio, così come ringrazio Filippo Aureggi in regia, Anita Palizza in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora buona domenica.